Davide fuggì da Naioth di Rama e andò a dire a Jonata: «Che cosa ho fatto a tuo padre perché attenta alla mia vita?» Gli rispose: «Non sia mai, tu non morrai. Ecco, mio padre non compie una cosa grande o piccola senza confidarmela. Perché mio padre mi avrebbe nascosto questa cosa? Non può essere.» Davide giurò ancora: «Certamente tuo padre sa che io ho trovato simpatia ai tuoi occhi e si è detto: Jonathan non sappia questo affinché non se ne affligga. Comunque, per la vita del Signore e per la vita della tua anima, tra me e la morte c'è appena un passo.» Jonathan disse a Davide: «Qualunque cosa tu mi chieda, io la farò.» Davide rispose a Jonathan: «Ecco, domani è la luna nuova e io dovrei sedere con il re a mangiare, ma tu lasciami andare. Io mi nasconderò nella campagna fino alla terza sera. Se tuo padre si preoccupa di cercarmi, tu dirai: Davide mi ha chiesto con insistenza di fare una corsa a Betlemme, sua città, perché vi si celebra il sacrificio annuale per tutto il parentado. Se dirà: va bene, il tuo servo è salvo, ma se ha un gesto d'ira, sappi che il peggio è stato deciso da parte sua. Tu userai misericordia con il tuo servo, perché con il patto del Signore hai legato a te il tuo servo. Ma se vi è in me qualche delitto, fammi morire tu stesso. Perché condurmi fino a tuo padre?» Jonathan rispose: «Non sia mai. Perché, se saprò veramente che da parte di mio padre è stato deciso che su di te piombi la rovina, non te lo farò sapere.» Davide domandò a Jonathan: «Chi mi farà sapere se tuo padre risponderà duramente?» Jonathan disse a Davide: «Su, usciamo nella campagna.» E i due uscirono nella campagna. Jonathan disse a Davide: «Signore Dio di Israele, certo, domani o dopodomani a quest'ora scruterò le intenzioni di mio padre. Se esse sono favorevoli a Davide, ed io non manderò a rivelarle alle tue orecchie, che il Signore faccia così a Jonathan e peggio ancora. Se invece è parso bene a mio padre di fare cadere la rovina su di te, allora lo rivelerò alle tue orecchie e ti lascerò partire, e tu te ne andrai in pace. Il Signore sia con te come lo fu con mio padre. E se io sarò ancora vivo, allora userai verso di me la bontà del Signore. E se sarò morto, non smetterai di usare la tua bontà verso la mia casa. Quando il Signore toglierà tutti i nemici di Davide dalla faccia della terra, il nome di Jonathan non sia mai soppresso dalla casa di Davide. Il Signore ne chiederà conto a Davide.» Jonathan fece fare di nuovo un giuramento a Davide per l'amore che gli portava. Egli, infatti, lo amava dell'amore che portava a se stesso. Jonathan gli disse: «Domani è la luna nuova e tu sarai ricercato, perché si noterà il tuo posto vuoto. Farai passare 3 giorni, poi scenderai giù e andrai in quel luogo dove ti sei nascosto nel giorno di quel fatto, e rimarrai presso Eben Ezel. Io scaglierò 3 saette là accanto, come tirando al bersaglio, e subito manderò il servo. Va, ritrova le saette. Se dirò al servo: ecco, la saetta sta di qua da te, prendila, allora vieni, perché va bene per te. Per la vita del Signore non c'è niente di grave. Ma se dirò al ragazzo: ecco, la saetta sta di là da te, tu vattene, perché il Signore ti manda via. E per le parole che abbiamo scambiato io e te, ecco, il Signore è tra me e te in eterno.» Allora Davide si nascose nella campagna. Arrivata la luna nuova, il re si mise a sedere per prendere il cibo. Il re si pose a sedere al posto suo come le altre volte, il posto verso la parete. Jonathan si mise di fronte, Abner si sedette al lato di Saul e il posto di Davide rimase vuoto. Tuttavia Saul quel giorno non disse niente perché pensava: sarà un caso fortuito, egli sarà impuro, certo non sarà mondo. Il giorno dopo la luna nuova, il posto di Davide restò vuoto. Allora Saul disse a Jonathan suo figlio: perché il figlio di Jesse non è venuto a pranzo né ieri né oggi? Jonathan rispose a Saul: Davide mi ha chiesto con insistenza di andare fino a Betlemme, dicendo: lasciami andare, perché abbiamo un sacrificio del parentado nella città, e mio fratello me ne ha fatto un obbligo. E ora, se ho trovato benevolenza ai tuoi occhi, che io possa fare una scappata per vedere i miei fratelli. Per questo non è venuto alla mensa del re. Saul si accese d'ira contro Jonathan e gli disse: figlio di una condotta traviata, non so forse che tu parteggi per il figlio di Jesse a tua vergogna e a vergogna della nudità di tua madre? Perché tutti i giorni che il figlio di Jesse vivrà sulla terra non sarai sicuro né tu né il tuo regno. Ma ora fallo condurre qua da me, perché è degno di morte. Jonathan rispose a Saul, suo padre, dicendo: perché dovrà essere ucciso? Che ha fatto? Allora Saul scagliò la sua lancia contro di lui per colpirlo, e Jonathan comprese che l'uccisione di Davide era ormai decisa da parte di suo padre. Jonathan si alzò da tavola bollente d'ira e non prese cibo nel secondo giorno della luna nuova, perché era afflitto per Davide e perché suo padre l'aveva offeso. Giunta la mattina, Jonathan uscì in campagna secondo quanto era convenuto con Davide. Un ragazzetto era con lui. Disse al ragazzo: corri, ricerca le frecce che io scaglio. Il ragazzo corse mentre lui scagliava la freccia in modo da oltrepassarlo. Giunto il ragazzo sul luogo della freccia scagliata da Jonathan, Jonathan gridò dietro al ragazzo: la freccia non sta più là da te? Poi Jonathan gridò al ragazzo: svelto, sbrigati, non ti fermare. Il ragazzo di Jonathan raccolse la freccia e ritornò dal suo padrone. Ma il ragazzo non sapeva niente. Solo Jonathan e Davide sapevano la cosa. Poi Jonathan consegnò le armi al ragazzo che era con lui e gli disse: va, portale in città. Partito il ragazzo, Davide si levò da dove era nascosto, cadde a terra sulla sua faccia facendo 3 prostrazioni. Si baciarono a vicenda e piansero insieme finché Davide giunse al parossismo. Jonathan disse a Davide: vai in pace, perché noi due ci siamo fatti un giuramento nel nome del Signore in questi termini: il Signore sarà tra me e te, tra la mia discendenza e la tua discendenza in eterno.